24 mattino. Le 8 e 16 minuti, ben ritrovati. 349-238-6666 per i vostri messaggi. È il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Grazie, eccoci, buongiorno qua a tutti. Allora, oggi torniamo a parlare con un taglio diverso, ma insomma di un tema di cui abbiamo già parlato, vale, sì, a dire i pagamenti online, diciamo così, i pagamenti telematici, l'uso di, insomma, di questi, esatto, pagamenti che, per i quali la gente è ancora un po' tra opportunità e rischi, esattamente, e rischi. Quindi, come dire, affronteremo questo argomento da un duplice punto di vista. Tu hai mai rischiato di abboccare ad una frode informatica? Tipo una trota, no? Sì, perché in inglese il termine che identifica, certo, questo fenomeno, come ben sai, è il termine phishing, con la PH bisogna davanti, però, molto, esatto. È vero. Bisogna stare molto attenti. Se sì, bisogna... sì, infatti. Questa è una delle frodi più diffuse, è utilizzata per ottenere l'accesso a informazioni personali riservate con la finalità del furto di identità mediante l'utilizzo di comunicazioni elettroniche. Come funziona? Può capitare che arrivi un messaggio di posta elettronica che imita esattamente, o più o meno esattamente, grafico e logo del sito istituzionale della nostra banca. L'utente è ingannato ed è portato a rivelare dati personali come proprio il numero del conto corrente, il numero della carta di credito, codici di identificazione. Nessuna banca chiede le nostre informazioni personali in questo modo, perché la nostra banca le ha già, e quindi questo dovrebbe già essere un segnale d'allarme. Ma cercheremo anche di individuarne altri con i nostri interlocutori di questa mattina. Buongiorno e grazie di essere con noi a Mattia Cappello, avvocato del Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno. Buongiorno e grazie anche ad Ettore Battelli, ricercatore di diritto privato all'Università di Roma. Professor Battelli, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro, perché abbiamo chiamato questi due interlocutori? Perché oggi pomeriggio a Roma c'è un seminario promosso proprio dal Movimento Difesa del Cittadino dal titolo Internet, pagamenti elettronici e frodi, opportunità e rischi, ed è un seminario che fa parte di un ciclo di iniziative promosse dall'Unione Europea per la prevenzione delle frodi con i mezzi di pagamento elettronico. Un altro molto importante ne è stato organizzato qualche giorno fa da un'altra grande associazione dei consumatori, è la di Consum, ed è stato organizzato proprio nella giornata in cui a Soldi e Dintorni abbiamo parlato della preferenza delle famiglie italiane dell'utilizzo del contante in luogo di carta di credito e bancomat. Dunque la prima domanda riguarda proprio questo. Avvocato Cappello, a livello europeo si sta alzando la guardia su questo fenomeno, cioè la frode informatica? Purtroppo, a quanto mi riguarda, credo che non c'è ancora una vera e propria disciplina legislativa europea per la tutela generale del consumatore finale. Anzi, devo registrare che c'è un aumento costante di queste frodi da parte di soggetti che per l'appunto mirano soltanto a destabilizzare il mercato e quindi a creare paura nel sistema di pagamento. Rassicuro sempre gli associati che si rivolgono al Movimento Difesa del Cittadino di stare attenti, stare tranquilli e continuare comunque ad operare i pagamenti via internet. Ecco, infatti, perché bisogna dare anche una misura del fenomeno dall'aspetto sano, diciamo. Possiamo anche, tra l'altro, segnalare alcuni casi studio. Sapete benissimo quante persone fanno ricorso, per esempio, non so, cito un caso, ad Expedia per prenotare le proprie vacanze interamente online. Quanta gente compra il biglietto del treno piuttosto che quello aereo utilizzando esclusivamente il canale telematico? Perché poi, avvocato Cappello, questo è ovviamente un punto molto importante per i consumatori, il risparmio che si registra utilizzando questi canali molto spesso rispetto a quelli tradizionali è altissimo, notevole. Assolutamente sì, non solo un risparmio economico, molto spesso ci sono delle offerte, ma anche un risparmio di tempo. Molto spesso non c'è il tempo di andare, non so, in biglietteria a fare il biglietto, piuttosto non c'è il tempo di fare un acquisto. O comunque, io dico sempre, molto spesso si fanno degli acquisti che altrimenti non si potrebbero fare. Se una persona sta in un piccolo centro, in un piccolo paese, non ha la fortuna di avere a propria disposizione i vari negozi che siano in una grande città, ecco che l'utilizzo del commercio elettronico questo lo favorisce notevolmente. E infatti, oltre al fatto che naturalmente si possono esplorare anche confini geografici dal punto di vista commerciale molto lontani da noi, quindi ci si può divertire anche un po'. Ovviamente non si può prescindere però da certi standard di sicurezza, e qui coinvolgo Ettore Battelli, ricercatore di diritto privato all'Università di Roma, che tra l'altro al convegno di oggi affronterà proprio questi aspetti. Allora, io decido di utilizzare il canale portale online per effettuare un acquisto, quali sono appunto gli standard di sicurezza dai quali non posso prescindere come consumatore? Professor Battelli. Il problema che spesso si ha nell'utilizzare i mezzi di telecomunicazione, soprattutto il mezzo di internet, è quello spesso dell'ignoranza di chi si avvale di questi mezzi, un po' il problema semmai, o perlomeno la superficialità, nel senso che spesso si trascura di verificare che il sito sia quello reale, un po' la domanda, e poi un po' l'esempio che ha fatto lei all'inizio, il grosso problema del phishing è che spesso l'apparenza assomiglia alla realtà ma non è il sito reale che, con il quale si vuole interagire. Io consiglio sempre un piccolo accorgimento, quanto ad esempio nel phishing arriva un link sul quale ci si invita a cliccare, io consiglio sempre in alternativa, se spesso è la nostra banca, di scriverlo noi l'indirizzo della banca, non affidarci al link che ci inviate una casella email. Perché? Perché in questo modo noi siamo sicuri che il sito con cui noi andiamo a interagire è quello vero. Peraltro tutti questi siti delle grandi banche hanno ormai dei sistemi di decodificazione degli accorgimenti, come il simbolo VeriSign, con cui ci avvertono che il sistema di pagamento è un sistema verificato. No, tra l'altro, professor Battelli, quello sul quale poi mi volevo soffermare è che comunque quello che ho detto all'inizio mi sembra che corrisponda esattamente a verità. È impossibile che la banca ci chieda attraverso una nostra posta elettronica di ridarle il nostro numero di conto corrente, il nostro numero della carta di credito. La banca utilizza un canale di comunicazione con noi assolutamente diverso, che non è questo. Non solo è assolutamente diverso, ma è assolutamente impossibile, non è assolutamente consentito che la banca tramite un'email o tramite una comunicazione telematica ci chieda di modificare i dati personali. Semmai, ed è questo purtroppo quello che sta avvenendo, perché sono gli ultimi casi che stanno verificando di frodi informatiche tramite phishing, ci chiedono di controllare un accredito sul nostro conto corrente. Questo capita sia purtroppo con le banche, sia anche con altri aziende, penso Poste Italiane, in cui attirando l'attenzione del consumatore con frasi del tipo che è stato accreditato la seguente somma, verificate che la somma sia corretta, ecco, lì il consumatore è davvero tratto in inganno. Quindi proprio perché grazie anche alle trasmissioni come la vostra il consumatore si sta, diciamo, svegliando, è più accorto e sa che i propri dati personali la banca ne è in possesso, ecco, purtroppo nascono nuovi tentativi per... Certo, si vanno sofisticando. Sì, sì, professor Battelli, concludo. No, dicevo, diventano comunque tentativi evidentemente sempre più sofisticati, quindi in qualche maniera si cercano altre vie per far abboccare gli utenti. Questo per quello che riguarda appunto il rapporto con la banca. Tornando invece al commercio elettronico, quindi faccio un acquisto con il canale online, professor Battelli, qual è il miglior modo per pagare? Perché ovviamente posso conferire i miei dati della carta di credito, ma si può utilizzare anche il bonifico bancario, e ci suggeriscono, lo vedo da molti osservatori così che leggiamo quando ci affrontiamo, questo argomento, che per esempio anche la carta prepagata forse è il mezzo più sicuro. Oltre a quello, qualora imboccassimo una frode, non possono prelevare. Devo dire che in questo poi, diciamo, i consumatori sono molto più intelligenti di quello che sembra, nel senso che, come lei ha fatto riferimento, in passato si utilizzava quasi esclusivamente la carta di credito, oggi invece per fortuna sempre di più si fa strada la carta prepagata. Questo, diciamo, un mezzo di autodifesa, lo definirei, del cittadino, perché ovviamente il rischio connesso a una carta prepagata è infinitamente minimo rispetto a quella di una carta di credito, non fosse altro per i propri dati che entrano, diciamo, in circolo nelle reti telematiche. Quindi, insomma, se lei dovesse dare un suggerimento effettivamente per utilizzare il veicolo di pagamento più sicuro, quale suggerirebbe? Sicuramente o il bonifico bancario online, anche quello è sicuro, oppure la carta prepagata, che giustamente appunto i cittadini utilizzano sempre di più. Mattia Cappello, avvocato del Movimento Difesa del Cittadino, ovviamente un'associazione dei consumatori, sempre un grande osservatorio per testare l'entità e la preoccupazione anche che dobbiamo avere intorno ad un fenomeno. Dunque, quali sono gli ultimi suggerimenti che proprio in qualità di legale di un movimento dei consumatori si può dare a chi magari ha ancora una certa resistenza ad affrontare il canale telematico e dal punto di vista bancario, ma anche dal punto di vista, come dire, dell'acquisto? Bisogna innanzitutto stare attenti sui siti dove si va. La serietà è dimostrata e la sicurezza è dimostrata dal VeriSign, come diceva il collega prima, ma anche dal sito che deve essere controllato, HTTPS. Ecco, questa S finale ci dà la garanzia che il sito è sicuro. e poi utilizzare comunque con tranquillità le carte di credito. Le carte di credito per pagate vanno bene, ma attenzione, anche lì non c'è un'esenzione assoluta dai pericoli. Io come associazione purtroppo assisto diversi casi di soggetti che per l'appunto utilizzando carte di credito prepagate se le trovano prosciugate dall'oggi al domani. Magari insomma mettiamoci dentro solo l'importo teorico dell'acquisto che vogliamo fare, insomma comunque un tetto leggermente più alto. Grazie all'avvocato Mattia Cappello e anche al professor Ettore Battelli. Io vi saluto, Soldi e Dintorni anche per questa mattina termina qua. Alessandro, e alle 12 rientri per Salvadanaio. Salvadanaio per parlare ancora una volta di mutui. Cercheremo di esplorare novità di questo momento con questi tassi che stanno scendendo. Le rate ci danno sollievo, però non tutti i consumatori sono contenti. Benissimo, rientri nel senso che c'è uno studio, no? Entro ed esco da questo studio in continuazione, sì. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati. Eccoci qui con le ultime notizie. 49 persone sono morte per lo schianto di un aereo di linea vicino a Buffalo, negli Stati Uniti. L'aereo della compagnia Continental era decollato da Newark ed è precipitato su una casa. 8 miliardi per gli ammortizzatori sociali, e questo è il senso dell'accordo raggiunto nella notte tra governo e regioni. Ora l'intesa dovrà formalmente essere approvata dalla conferenza Stato-Regioni. E oggi lo sciopero generale di 8 ore promosso da Fiome e CGIL, che non riguarderà il mondo della scuola. Le lezioni potrebbero però comunque non svolgersi regolarmente perché alla manifestazione aderiscono le organizzazioni degli studenti. E il ministro Brunetta dice: chi va in piazza dovrebbe rinunciare ai 70 euro di aumenti ottenuti nel contratto. E ancora una notizia di scuola: è stato annullato dall'ufficio scolastico regionale il 10 politico assegnato a tutti i bambini di una scuola elementare di Bologna, in polemica con la reintroduzione dei voti in decimali. Anche il sindaco Cofferati si dice contrario, è stato un errore, mentre il ministro Gelmini auspica sanzioni nei confronti degli insegnanti. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio all'accordo, all'importante accordo sugli ammortizzatori sociali raggiunto nella notte tra governo e regioni. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Con l'accordo di questa notte tra governo e regioni si sono sbloccati circa 8 miliardi per gli ammortizzatori sociali. È una buona notizia perché l'intesa consente di estendere la cassa integrazione e prevede una sorta di paracadute anche per le imprese con meno di 15 dipendenti. Ci sono più garanzie per chi perde il posto di lavoro e ha la sfortuna di lavorare in un'azienda che non si chiama né Fiat né Alitalia. La Fiat sosterrà, speriamo, l'occupazione anche grazie agli incentivi sugli acquisti di auto, incentivi che per le piccole imprese non sono né previsti né possibili. L'Alitalia è stato oggetto di una rilevante ristrutturazione che ha lasciato un forte disagio tra i lavoratori, ne sono una conferma le manifestazioni di ieri, ma non ci si può dimenticare che sono stati concordati per i dipendenti Alitalia scivoli verso la pensione di 7 anni, trattamenti che molte delle 600.000 persone che probabilmente perderanno il posto di lavoro nei prossimi mesi nemmeno si sognano. Un'ingiustizia che si aggiunge all'angoscia dell'insicurezza del posto e della caduta del reddito. L'accordo di questa notte sugli ammortizzatori sociali è un passo importante e introduce finalmente anche qualche elemento di equità. Buona giornata. Grazie a Ferruccio De Bortoli, ovviamente ci ritroveremo lunedì. 349-238-6666 per i vostri messaggi alle 8:35 minuti. Come annunciato, andiamo virtualmente a Genova per cercare di capire quello che sta succedendo, soprattutto il dibattito sulla costruzione della moschea. Sapete che quando si parla di costruire una moschea in Italia, un po' dovunque, dove succede, si creano dei dibattiti, chi è favorevole, chi è contrario. Io saluto il sindaco di Genova, Marta Vincenzi. Buongiorno sindaco. Le leggo il sondaggio che c'è sul Secolo XIX, insomma il giornale di riferimento della sua città, della sua regione, il sondaggio online che c'è da diversi giorni. Moschea Genova, come la pensate? Attualmente, per quanto valga, non va bene, sono al 64%, va bene il 25%. Insomma, diciamo che i lettori, almeno del Secolo XIX, sembrano contrari. Perché una moschea a Genova, sindaco? Ma a Genova esistono 5 moschee che sono state tirate su, diciamo, nel totale silenzio e sono il frutto di compravendita o affitti di questo o quel edificio privato o sottoscala o diciamo spazio ricavato nel centro storico. Esistono da moltissimi anni. La comunità islamica ha chiesto da altri tanti anni e lo ha poi concretizzato nel 2005 con l'acquisto di un capannone, di poter eliminare, togliere questi luoghi secondo loro inadatti al culto e aver diritto ad un vero luogo di culto alla luce del sole. Sì. Nel 2005 la precedente amministrazione esaminò il progetto, urbanistico, quindi che non passava, non essendo variante urbanistica, attraverso nessuna decisione del Consiglio Comunale, e diede il permesso a costruire. I tempi fecero sì che tale permesso non fosse rilasciato in maniera vera, insomma, formale, prima della conclusione del mandato precedente. Nel 2007, alla fine del 2007, quindi ho ripreso in mano questa questione e ho posto alla comunità islamica una serie di problemi. Mm. Ho detto: guardate, questo capannone industriale è nel centro, nel cuore di un quartiere popolosissimo e sembra uno schiaffo, e comunque anche allora c'erano state molti no, ma questi no dal punto di vista della localizzazione urbanistica in qualche modo io li condividevo, ma c'era qualcosa di più. Sì. Che io non sapevo se questa comunità islamica avesse o no dichiarato la propria distanza rispetto a Lukoi e a qualsiasi forma di integralismo e di... Sì, Lukoi è una delle organizzazioni, forse la maggioritaria come numero, che raggruppa appunto i musulmani. Le chiedo però, questo diciamo è l'iter, ma lei che ne pensa dei no? Perché tra l'altro oggi ci sono due manifestazioni, una pro, una contro. Una delle manifestazioni è capeggiata, tra l'altro qui c'è anche il segretario regionale della Lega, è capeggiata dal sottosegretario Castelli, che allora ministro della giustizia già disse no alla moschea a Genova. Di fronte a questi no, lei cosa dice? Cioè sono no ideologici o no motivati? Ho fatto questo iter per dire che il risultato a cui siamo arrivati oggi è completamente diverso, perché abbiamo scelto un sito che ha le caratteristiche di non invadenza rispetto all'abitato e agli altri luoghi religiosi, e trattiamo con una comunità che si è costituita in associazione, cioè una personalità giuridica, con uno statuto che dichiara non solo di riconoscere ovviamente tutto ciò che la nostra Costituzione prevede, compresa la parità dei sessi, ma di svolgere le prediche in italiano e di avere nessuna affiliazione rispetto a quanti predichino appunto odio oppure addirittura si hanno affiliato. Quindi ci sono le garanzie, insomma, per la sicurezza. Saluto Francesco Bruzzone, segretario della Lega Nord Liguria. Lei oggi, buongiorno, ovviamente sarà... Buongiorno a voi e buongiorno al sindaco. Sarà a sfilare capofila, ripeto, il vice ministro Castelli, sottosegretario Castelli, che da ministro già era contro la moschea. Perché no? È un no ideologico alla moschea, invece di avere delle moschee illegali, averne una istituzionalizzata, controllata, dove si predica in italiano? Ma è un no ricco di motivazioni. È vero che a Genova esistono già più luoghi dove si prega, non sono moschee, non c'è, nel senso che non sono costruzioni tipiche come lo sono le moschee. Quello che a mio avviso è rilevante è la posizione dei praticanti di questi luoghi di culto, che ascoltati in miriade di interviste, sia di tipo della carta stampata sia televisive, dichiarano: va bene la costruzione della moschea al quartiere del Lagaccio, però noi vogliamo continuare a pregare dove abbiamo pregato fino adesso. Io non ho sentito un'intervista di qualche musulmano che abbia detto una cosa diversa, esclusi i vertici che hanno costituito appositamente un'associazione finalizzata alla costruzione di una moschea. Di fatto, quindi, Nessuno qui si mette contro la libertà di culto, ma di fronte alla possibilità e alla richiesta da parte dei musulmani genovesi di continuare a pregare laddove lo hanno fatto fino adesso, non c'era bisogno di un nuovo. Si dimostra che la costruzione della moschea è un qualche cosa di diverso rispetto alla necessità di avere un luogo di culto, perché tanto loro vorranno continuare e a pregare. Che ci sarebbe di diverso? Sicuramente la possibilità di avere un edificio che è anche un aspetto simbolico e che segnali una sorta, fra virgolette, di presidio territoriale da parte di una comunità islamica che con tutto ciò che è avvenuto negli ultimi anni sicuramente è numericamente aumentata. Ah, questo dice, cioè, città, una sorta di adombra, una sorta di volontà di dire ai musulmani: siamo qui, mi lasci parlare fuori dai denti, a conquistare Genova con la nostra moschea. Sotto un certo profilo sì, perché se loro stessi, parlo dell'utenza e non dei dirigenti che hanno un interesse specifico, che hanno costituito specificatamente l'associazione per costruire la moschea, ma se l'utenza chiede di poter continuare a pregare come hanno fatto fino adesso, credo che negare con la possibilità voglia dire andare veramente a intoccare la libertà di culto. Sindaco, ma quello che fa specie... Sì. No, Abruzzone, la devo fermare perché abbiamo un minuto. Sindaco, in un minuto vuole replicare Abruzzone, insomma, a dire... A parte che, diciamo, non è vero, perché non esiste che la comunità islamica abbia detto che vorrà continuare a pregare. Non è così. E comunque sono garanzie che vanno richieste nel prosieguo. Secondo, mi pare che le motivazioni le abbiamo ascoltate, siano motivazioni che hanno molto a che fare con il voler suscitare paure piuttosto che voler integrare, guardare a una città che deve essere multiculturale, multietnica, perché questo è il suo futuro. Allora, sindaco, mi lasci in 10 secondi farle questa domanda sulla questione del Gay Pride a giugno, perché c'è stato anche questo dibattito. Il Gay Pride, gli organizzatori hanno scelto ufficialmente la lanterna, che è il simbolo di Genova, come simbolo del Gay Pride che ci sarà a giugno. Che dice lei? Io ho avuto modo di dire che non vedo niente di particolarmente interessante o significativo in questa scelta. Mi pare una scelta di marketing che voglia far segnalare dagli organizzatori di una manifestazione nazionale il luogo dove la... Ma la disturba o no? La disturba o la lascia indifferente? La disturba o la lascia indifferente? Mi lascia completamente indifferente. Perfetto, la ringrazio. Ringrazio il sindaco Marta Vincenzi, sindaco di Genova, del Partito Democratico, ho dimenticato di dirlo, così come ringrazio il segretario della Lega Nord Liguria, Francesco Bruzzone. Oggi due manifestazioni. Come al solito sui giornali si legge rischio di tensioni, centri sociali, Forza Nuova. Calma, voglio dire, ci sono due manifestazioni. Una pro, ci sarà Don Gallo, pro la moschea ad animarla. Una contro, ci sarà il sottosegretario Castelli, molti leghisti e molti altri che si uniranno. Va bene, insomma, pro e contro, bene così, e andrà tutto bene. L'ultima parte di 24 mattino alle 8:46 minuti, torniamo a parlare del decreto mille proroghe. Ne avevamo già parlato settimana scorsa, dicendo un po' quelli che erano anche i contenuti, qualcuno dice un po' bizzarri. È stato approvato al Senato, andrà alla Camera, qualcuno dice che sarà blindato, non ci sono tempi per modifiche, staremo a vedere. Molluschi bivalvi, colonnelli in carriera, sconti della benzina che abita il confine con l'Austria, medicinali omeopatici per gli animali, soldi agli enti che si occupano per la montagna, le telefonate spot, stop ai barconi che utilizzano l'altoparlante a bordo. Insomma, avete capito, nel decreto mille proroghe c'è un po' di tutto. Qualcuno ha scritto ieri sulla stampa, per esempio, anche qualche provvedimento a favore della, tra virgolette, casta, per esempio la cosiddetta sanatoria sulle affissioni abusive dei manifesti. Sapete che in campagna elettorale spesso ci sono manifesti abusivi. Una sanatoria, cioè tutti i contenziosi sono sanati con un versamento una tantum di 1.000 euro. Saluto l'autore, insomma, dell'emendamento approvato, il senatore Domenico Benedetto Valentini. Buongiorno. Benedetti, mi perdoni. Domenico Benedetti Valentini, senatore del Popolo della Libertà. Lei è autore di queste emendamento approvato che, insomma, qualcuno ha definito un colpo di spugna, 1.000 euro e via tutti i contenziosi. Sì. È una spugnetta più che una spugna. È una spugnetta, perché avrete notato che in molti mille proroghe, c'è stata una norma o come questa o equivalente. In realtà io sono il firmatario, sì, il primo firmatario di questo emendamento, che poi però è stato fatto proprio dal governo nel maxi emendamento su cui ha posto la fiducia, e in realtà mi è stato suggerito o pressantemente richiesto dai segretari amministrativi dei partiti. Però che bella notizia. In queste cose c'è un bipartisanismo, se mi si passa il termine, totale, no? Tutti d'accordo quando si tratta di aiutarsi, insomma. Sì, l'ho chiamato una spugnetta per una ragione molto semplice, che in realtà tutte queste sanzioni che sembrano così pesanti, le pubbliche amministrazioni finiscono con non riscuoterli mai, perché non sono nella condizione di farlo, sono delle aspettative di riscossione, in quanto che prima di tutto non sempre si individua il responsabile, al di là del committente responsabile che è stampato nel manifesto, ma l'autore non si individua quasi mai. Sì. Poi per una norma del codice della strada che è direttamente coinvolta, non si capisce mai se sia la competenza del giudice ordinario o del giudice di pace. Ne nascono centinaia e centinaia di cause che non terminano mai, con un forte onere per la pubblica amministrazione. Quindi meglio riscuotere almeno un euro, mille euro, mille euro. No, un euro. No, mille euro. Sì, sì. Allora, finisce che queste cause comportano una grande spesa, passano degli anni, si prescrivono in molti casi e la riscossione non c'è mai, cioè è una partita in netta perdita. Meglio mille euro per partito, perché tutti fanno le affissioni abusive. Tra l'altro voglio salutare Antonello Caporale di Repubblica, ma insomma grande graffiatore, posso definirti così, Antonello. Grazie, buongiorno a voi. No, sul decreto mille proroghe, perché questa è una delle proposte passate definite della casta. Ce n'è un'altra definita salva casta, per cui i giornali di partito avranno salvi i soldi, finanziamenti pubblici, anche se non hanno più parlamentari in Parlamento eletti. Prima ci volevano, è stata stralciata una cosa, modificata una cosa così, insomma. Che dobbiamo pensare in un provvedimento in cui si parla dei molluschi bivalvi, dei giornali di partito e di quant'altro? A me viene da pensare ai cenoni di Natale, quando si spendono tutti quei soldi per mangiare, e però i soldi spesi sono così tanti che un po' di pasto resta per il giorno dopo. E il mille proroghe è appunto una bacinella in cui sono depositati alcuni rimasugli che il governo decide di destinare ai poveri singoli deputati. Questa volta il governo, essendo così forte, e ahimè il Parlamento essendo un ornamento, ha fatto in modo che quel rimasuglio ritornasse nella sua propria gola e quindi nel suo proprio stomaco. E come sappiamo i partiti, perché il legislatore è rigido, il principio bisogna rispettarlo, e la verità, la legge bisogna sempre che sia suprema, è una legge, un principio che vale per tutti, ma non per chi lo fa. Come voi sapete, il Parlamento molte volte statuisce per tutti i cittadini, per se stesso però promuove le deroghe. Tra l'altro io mille euro per sanare le affissioni, senatore Benedetti Valentini, ma mille euro ad affissione, mille euro a partito, cioè che vuol dire mille euro come sanatoria, diciamo così? Mille euro per anno. Che se trattiamo, intanto per cominciare, se sono 3-4 anni andiamo a 4-5, sì. E poi stiamo parlando di ogni comune o gruppo di comuni raggruppati per ciascuna provincia. Cioè ogni partito certo, accusato ogni partito questi 1000 euro per ciascun comune o gruppo di comuni, se sono più comuni all'interno di ciascuna sarebbe interessante capire a quanto ammontavano quelle multe che lei dice non sarebbero mai state comunque riscosse, perché non si può capire chi li ha messi, non si capisce chi è che il giudice di pace o chi altro deve riscuoterle. Non c'è questa cifra, se ce l'ha ce la dia, per favore. Come tutti i condoni o come tutte le sanatorie, non è certo una norma elegante o gradevole, però dal punto di vista del ritorno economico le pubbliche amministrazioni finiscono con l'avvantaggiarsi. Ma la cifra lei ce l'ha? Cioè si sa di quanto... La cifra complessiva non ce l'ho, però parliamo dell'ordine di molte decine di mila euro... per quasi tutte le principali regioni. Sì. Vabbè, lei dice non è una norma elegante, ma almeno qualcosina facciamo riscuotere l'amministrazione pubblica, se no non si sarebbe riscossa. Io va bene, la ringrazio, vediamo se rimarrà la Camera, torneremo a questo decreto mille proroghe, anche perché c'era un amministratore del Trentino, vi ricordate, della Sud Tirol Fospartai, quello si era dimenticato di chiedere dei soldi per il rimborso alla SVP, ha fatto richiesta, l'emendamento al Senato non è passato, quello lì, ci proveranno alla Camera, si tratta credo di un paio di milioni di euro che si sono così sbagliati, si sono dimenticati di richiedere alla SVP, c'è l'amministratore del partito che è un po' in ambasce, da un anno riesce a vivere un po' così così, cercheranno di recuperarli alla Camera e noi staremo ovviamente con gli occhi molto attenti. Tra poco parliamo con l'elefante Giuliano Ferrara, il tema è lo scontro istituzionale, se c'è non c'è, tra governo, presidenza del Consiglio e Quirinale, e noi ci ritroviamo lunedì con 24 mattino, scriveteci 24 mattino e tra radio24.it, a lunedì.